Ridico sull'Inps. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in tempo di coronavirus. Parleremo intanto della lentezza su cui questi decreti vengono poi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, vabbè, e mi riferisco non solo a quello rilancio o ristoro, come l'ho chiamato io, ma in generale anche a tutti i passaggi parlamentari anche del DL per le imprese, però soprattutto della novità che è intervenuta ieri dopo l'incontro tra Angela Merkel e Macron. Parleremo anche di come sia nato questo incontro, del perché Francia e Spagna non siano state, tra virgolette, secondo alcuni volutamente invitate, nel senso che non si voleva dare l'impressione di che vi fosse di nuovo una pressione dei paesi del sud, un incontro che da molti è definito come, cioè un risultato dell'incontro come un punto di partenza positivo, ossia 500 miliardi distribuiti agli stati sotto forma di sovvenzioni incardinate sul bilancio pluriennale europeo, finanziati con l'emissione di titoli da parte della Commissione europea. Non sono quindi prestiti, da quello che si è capito dovrebbero essere più o meno 100 miliardi per l'Italia, ma erogazioni a fondo perduto. Però poi si specifica che gli aiuti saranno basati su un chiaro impegno degli Stati membri ad applicare politiche economiche sane e un'ambiziosa agenda di riforme. È appunto un compromesso tra le posizioni dei paesi dell'Europa del Sud, e quindi Italia, Francia e Spagna in testa, e la parte del nord, Olanda, ma anche la Germania. Nel frattempo oggi c'è stato un video, un Ecofin in videoconferenza e una riunione dei ministri dell'economia che hanno adottato lo strumento europeo del SURE e lavorato su alcuni dettagli dei prestiti della BEI, su cui ancora non sembra esserci accordo. Però mi sembra che tutti abbiano definito la proposta franco-tedesca ambiziosa e mirata, sia la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, e Macron ha detto poi che ora aspetta la Commissione Europea a fare la proposta. Angela Merkel ha ribadito che i 500 miliardi sono da prendere dal bilancio europeo e non sono prestiti, che a mio avviso sembra la cosa più importante anche per l'Italia, e il ministro dell'economia francese ha detto Le Maire la proposta Merkel-Macron è un passo storico. Anche Scholz, mi riferisco al ministro delle finanze tedesco Scholz, ha detto la proposta franco-tedesca è un'ottima notizia per l'Unione Europea. Sono arrivati altri plausi. Chiaro, l'Austria dice beh, vorremmo prestiti, non aiuti, ma non è quello che è la proposta franco-tedesca. La Spagna applaude la proposta franco-tedesca, anche l'Italia ha detto un buon punto di partenza, bene il piano franco-tedesco, ha aggiunto Conte, ampliare il recovery fund. E il ministro Provenzano, ministro per il sud e la coesione territoriale, ha definito l'accordo franco-tedesco un'intesa straordinaria. Qualcuno mi sta scrivendo è la dimostrazione che l'Italia è in secondo piano in Europa. Adesso non è che lo scopriamo oggi, però da quello che ho capito io è stata una scelta anche voluta non fare un incontro Germania, Francia, Italia e Spagna e riproporre le pressioni, perché un incontro del genere avrebbe poi aperto la polemica, perché non inviti anche gli altri paesi. È chiaro che è una riproposta dell'asse franco-tedesco che poteva essersi forse un po' indebolito viste le diverse posizioni, ma è sempre rimasto l'asse portante di questa Unione Europea. Però poi guardiamo anche alla ciccia, cioè se veramente poi la proposta della Commissione Europea con l'appoggio franco-tedesco e la Germania ha anche la capacità, inutile girarci attorno, di, tra virgolette, convincere Olanda e Austria dovesse portare appunto a sovvenzioni, non prestiti, beh, sarebbe già un bel risultato. Uso il condizionale perché finché non lo vedo non ci credo in qualche modo. Comunque di questo parleremo in apertura invece di alcuni settori nel giorno delle riaperture. Ieri la prima fase, la seconda fase, ormai non so più come chiamarla, la seconda fase bis, ci sono già dei dati sia su quanti hanno riaperto a livello nazionale, sia, ahimè, anche su alcuni rincari che si sono già verificati, penso a proteste arrivate dal vento per il caffè 1,30 euro. Ora, per carità, io capisco la difficoltà dei bar, però non è che si possa scaricare dei bar e degli esercizi commerciali sul cliente, non funziona esattamente così, anche perché chi è rimasto chiuso può, lo so benissimo, con tutti i tempi della burocrazia italiana, chiedere i 600 euro, chiedere la cassa integrazione. Oggi, tra l'altro, sulla cassa integrazione Tridico, il presidente dell'INPS, poi lo ricorderò, ha dato i dati sul ricorso alla cassa integrazione al momento attuale, quante casse integrazione è stata erogata. Però, dicevo, parleremo da un lato anche dell'eco bonus, perché alcune categorie dei comparti che sono coinvolti nell'eco bonus, sapete, il 110%, l'estensione dell'eco bonus rafforzato delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per interventi volti a incrementare l'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico, e per interventi connessi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. L'ANCE dice, attenzione, i cosiddetti interventi minori continuano a essere agevolati anche per esempio la detrazione al 50% in 10 anni per serramenti e condizionatori, il super sconto al 110% in 5 anni scatta solo se questi lavori sulle singole unità immobiliari vengono effettuati nell'ambito di un più ampio intervento. Insomma, cerchiamo di capire perché invece alcuni dei soggetti economici stiano lamentando il rischio di inefficacia. E poi parleremo del settore del mare. Un doppio aspetto: il mare è inteso in questo momento come tutto il settore marittimo, e lamenta la Federazione Nazionale Agenti Marittimi, lamenta sostanzialmente di essere stato escluso da ogni intervento. Dall'altro invece poi c'è il settore del mare inteso come turismo, perché è vero che le regioni stanno aprendo, vedi la Sardegna, vedi la Sicilia, ai bagni in mare, una cosa può far sorridere, ma la cosa più importante è capire come si stiano attrezzando le associazioni dei balneari da qua al 3 giugno sostanzialmente, perché poi il 3 giugno sarà possibile, salvo appunto novità che non ci auguriamo, lo spostamento tra le regioni, ed è immaginabile che, non dico il 3 giugno, ma da quel weekend, dal primo weekend disponibile in poi, si possa iniziare anche un'attività balneare, pur con tutte le misure che sono state indicate. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Parleremo anche del BTP Italia, che sta andando benissimo. Oggi, ieri aveva già raccolto 4 miliardi, oggi ne ha raccolti più di 4, quindi siamo a oltre 8 miliardi di raccolta, serve a finanziare gli interventi di emergenza sul Covid-19. Visto che parlavo del BTP Italia, do anche la borsa, oggi realizzi, ieri erano andate molto bene le borse, meno 1% Parigi, invariata Francoforte, Londra meno 0,90, meno 1,90 Milano invece, per via di Tenaris meno 9,5%, e ancora Telecom Italia meno 8,70, ricordati meno 7,80, Pirelli, Banco BPM meno 7,20, Pirelli meno 6%, e ancora Campari meno 5,80, Azimut meno 5,20%. Continuo con chi perde più del 4, cioè Saipem il 5% come case new, CNH B per meno 4,90, Fiat Chrysler meno 4,70, il 4,5 lo perdono Prismian, Leonardo, Amplifon e Ubi Banca, il 4% del calo di A2A. Bene, la controllante del gruppo Fiat Exor più 2%, Enel più 1,70%. Telecom Italia ha avuto conti peggiori delle attese, ma veniva da un mese in cui aveva guadagnato il 10%. Dunque, vedo molti messaggi sui prezzi. È vero che anche nei supermercati e negli fruttivendoli e negli alimentari durante la fase 1 c'erano stati rincari, li abbiamo notati tutti, almeno chi va a fare la spesa se ne sarà sicuramente accorto. In parte nell'ortofrutta erano dovuti anche ai problemi nella raccolta, ma in parte erano dovuti al fatto che c'era una situazione di sostanzialmente d'Italia bloccata e non potendo andare né al ristorante né al bar né altre parti, eri obbligato ad andare dall'ortofrutta e al supermercato. L'abbiamo visto anche nei dati Istat, perché i dati Istat hanno segnalato sia ad aprile che a marzo inflazione normale a zero, inflazione carrello della spesa più 2,1%, con una forchetta mai così ampia tra l'inflazione generale e l'inflazione dei beni a maggior frequenza d'acquisto, che sono in primo luogo i beni alimentari. Oggi hanno ripreso le vendite allo scoperto in Italia? Sì, può essere. Vedo che Castagna, mi sono legato del Banco BPM, dà colpa soprattutto alle vendite allo scoperto per il calo del 7%. Andiamo però con ordine. Dicevo, oltre al numero per SMS e WhatsApp 349-238-6666, le notizie in breve. Dunque, per quello che riguarda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbiamo detto in questi giorni della riunione che si è tenuta a Ginevra, ha detto sì, insomma, ha trovato una soluzione un po' pilatesca. Del resto, quando la Cina è lì presente e il suo direttore generale è molto vicino alla Cina, non ci si poteva attendere chissà quale risoluzione. Che cosa ha deciso l'OMS? Ha approvato una risoluzione che sancisce l'accordo di avviare al momento opportuno, in consultazione con gli Stati membri, un processo graduale di valutazione imparziale, indipendente e globale della risposta sanitaria coordinata dell'OMS nella crisi del coronavirus. Mi raccomando, con calma, con tutti gli Stati membri d'accordo, ma è chiaro che la scontro è in atto, tant'è che Trump ha minacciato uno stop definitivo ai fondi e anche l'adesione stessa degli Stati Uniti all'Organizzazione Mondiale della Sanità se non si impegna su sostanziali miglioramenti nei prossimi 30 giorni. E ancora la Cina, ha detto la lettera inviata da Trump, inganna l'opinione pubblica e infanga la Cina, visto che accusa Trump la cattiva gestione dell'OMS nella crisi del Covid-19 e la mancanza di indipendenza da Pechino. La von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, dice adesso è il momento di cooperare, ma l'OMS va modernizzato perché qualcosa non ha funzionato. E ancora Conte ha detto, intervenuto nell'assemblea, e ha detto occorre rafforzare lo scambio di informazione, l'Italia è per la solidarietà internazionale sul Covid-19 e sui vaccini, nessuno deve restare indietro. Il ministro Speranza, anch'esso intervenuto all'Assemblea Generale, ha chiesto che il ruolo dell'OMS sia guidato soprattutto dalla scienza, per carità, adesso uno può avere le opinioni che vuole, possiamo dire che almeno, insomma, che l'OMS non abbia funzionato, che abbia sottovalutato l'epidemia, che abbia dato indicazioni contrastanti, ma qualcuno si ricorda le mascherine? Adesso, indicazioni riprese anche da alcuni virologi, che come ho detto io, più presenti in TV che in laboratorio, le mascherine non servivano, creavano finta informazione. Abbiamo una lista di tutte le dichiarazioni rese dall'OMS. Io non sto dicendo che l'abbiano fatto apposta, però se sbagli vale per tutti, vale per il sottoscritto, basta riconoscere che hai sbagliato, vale per l'OMS, non la polemica ma la critica che io faccio per esempio alla regione Lombardia. Nessuno ti sta dicendo che tu l'abbia fatto apposta, ci mancherebbe, ma hai sbagliato nella gestione, guarda altri modelli e basta continuare a dire che qua abbiamo avuto il focolaio, il vulcano, la bomba atomica, ce la siamo creata nella gestione della bomba atomica. E così come l'OMS, invece che continuare, o la Cina, a dire ma c'è un attacco, riconoscete che qualcosa non ha funzionato, per carità, si sbaglia, errare umano, basta riconoscerlo, tutto qui. Perché le dichiarazioni, adesso vedo qualcuno, allora voglio fare semplicemente, abbassatemi un attimo la sigla perché adesso mi sono rotto, vedo che qualcuno continua a difendere la Cina, a dire che, allora io vi leggo rapidamente le dichiarazioni dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sul virus. Allora, il 31 dicembre la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan segnala all'OMS un cluster di casi di polmonite dalle cause ignote nella città di Wuhan. Il 9 gennaio il Centro di Controllo e Prevenzione cinese riferisce che è stato identificato un nuovo coronavirus come agente causale SARS-CoV-2, come agente causale della malattia respiratoria, poi denominata COVID-19. Ok. Il 12 gennaio l'OMS scrive, o meglio dice, si sconsiglia l'applicazione di eventuali restrizioni di viaggio e commerciali rivolti alla Cina, cioè dice non chiudete le rotte e i viaggi commerciali verso la Cina perché in base alle informazioni attualmente disponibili siamo rassicurati dalle indagini in corso e dalle misure di risposta attuate a Wuhan e dell'impegno a condividere e regolarmente le informazioni. Qui inizia il rebus: o la Cina non ha condiviso le informazioni con l'OMS, o l'OMS si è fidata della Cina, o l'OMS non ha capito, perché nei rapporti del 23, 24 e 25 gennaio il rischio viene a livello globale del coronavirus viene definito moderato. Il 27 gennaio si corregge e viene definito molto alto in Cina, alto a livello regionale e alto a livello globale. Il 30 gennaio dichiara l'epidemia in Cina, poi manda una delegazione di esperti a Pechino il 16 febbraio, a quel punto l'11 marzo definisce Grebesus la diffusione del Covid non più un'epidemia ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta. Ora, L'8 aprile l'OMS continua a dire che le mascherine per il viso non possono impedire alle persone sane di contrarre il Covid. E dicono appunto non indossare la mascherina all'esterno non impedisce l'infezione. E via avanti così. Ora, è chiaro che c'è un buco enorme. È chiaro che dal 16 febbraio al 28 febbraio non si capisce, e dal 28 febbraio all'11 marzo e ancora l'8 aprile sulle mascherine, quando adesso tutti stiamo dicendo l'obbligo delle mascherine, cioè che qualcosa non abbia funzionato, ripeto, anche in buona fede, avrei forse sottovalutato l'epidemia, forse le informazioni non erano corrette, io poi andrò a prendere anche tutti i dubbi che l'OMS aveva sulla trasmissione a metà gennaio uomo individuo umano su individuo umano. E via così. Allora, nel momento in cui tu a fine gennaio, con quello che già succedeva in Cina, definisci ancora il virus, il rischio a livello globale come moderato, almeno puoi ammettere che hai preso una cantonata, su. Non voglio neanche pensare ai rapporti con la Cina. Comunque, andiamo avanti, riprendiamo le headlines e andiamo sull'Italia. Dicevo, superati i 4 miliardi nel BTP Italia, l'INPS ha fatto notare che durante il picco dell'epidemia tra il 2 febbraio e l'11 aprile sono aumentati del 110% i certificati di malattia, ma la cosa più importante è che il presidente dell'INPS, Tridico, ha detto che la cassa integrazione ad oggi è stata pagata a 4.600.000 persone, o attraverso un pagamento diretto, o attraverso l'anticipo o il conguaglio da parte dell'INPS, su una platea potenziale di 7.200.000 beneficiari, e ha ricordato che il meccanismo è rigido. Il problema è che mancano all'appello 2 milioni mal contate 600.000 persone che ne avrebbero dovuto aver diritto. E poi ha detto, Tridico, dal 4 maggio in poi oltre 2/3 dei lavoratori nel settore privato sono tornati a pieno regime. Ci sono delle cose interessanti però che continuano a capitare. Ne segnalo una che riguarda un'azienda vinicola anche molto importante in Alto Adige, si chiama Hofstadter. Martin Fradori Hofstadter, lo raggiungeremo magari domani, ha dovuto noleggiare un jet per far arrivare le braccianti dalla Romania, perché la burocrazia avrebbe impedito l'ingaggio delle lavoratrici. Hanno cercato di risolvere il problema in ogni modo con settimane telefonate, non si trova nessun italiano disponibile a potare e alla fine ha noleggiato un jet privato. Per carità, no, tutto normale, abbiamo... Vabbè, non voglio neanche iniziare, corretti cittadinanza al sud e poi invece i lavoratori che devono arrivare con i jet privati al nord perché non si trovano manodopera. Però, veniamo al nostro paese, dati della Confcommercio, o restiamo, scusatemi, nel nostro paese. Il 90% dei negozi di abbigliamento sono aperti, la ristorazione è invece aperta per il 70%, ma il 40% bar e ristoranti, non solo ristorazione, il 40% dei dipendenti è rimasto a casa, pari a 400.000 unità, e io mi auguro con tutto il cuore che sia solo dovuto al fatto di una ripartenza lenta. Aperti solo 5 mercati su 10, c'è una difficoltà a rispettare le misure, i mercati rionali. E poi la denuncia dei Kodakons, caffè e taglio dei capelli più cari, più 50% dal parrucchiere, lo shampoo più 25%, beati i calvi a sto punto. Il caffè, nel centro di Milano un espresso è 1,30€ e si arriva fino a 2€, a Roma 1,10€ fino a 1,50€ più 36%, a Firenze 1,40€ fino a 1,70€ più 21%. Che devo dire? Allora, il ministro Patuanelli oggi in videoconferenza alla Commissione Industria del Senato ha ricordato come alcuni settori siano già più drammaticamente coinvolti di altri. La produzione industriale ha perso sostanzialmente 200 miliardi di valore a marzo e aprile rispetto a marzo e aprile del 2019. Patuanelli ha fatto notare che i 12 miliardi di anticipo alla pubblica amministrazione sono le misure più importanti per pagare le imprese, per pagare i debiti nei confronti delle imprese, poi che le imprese risparmieranno 600 milioni circa con il taglio delle bollette e che è stato attuato un vero e proprio stravolgimento del fondo di garanzia, che prevede appunto un innalzamento al 90% della garanzia dello Stato per i prestiti fino a 5 milioni di euro. Ha detto che non si esclude il fondo di garanzia e poi ha detto che è assurdo attribuire la responsabilità a priori al datore di lavoro nel caso di contagio, perché non è facile capire dove è stato preso e dove è avvenuto il contagio. Sulla vicenda delle prestiti alle imprese, ieri abbiamo fatto ascoltare la posizione del Presidente del Consiglio Conte, la posizione anche dell'ex Presidente del Consiglio Prodi, del vice segretario del PD Orlando. Oggi vi faccio ascoltare questa dichiarazione del leader, ex ministro Carlo Calenda, perché di azione, perché a mio avviso uno può pensare come vuole, ma entra nel merito del tema del prestito richiesto dalla Fiat, cioè qui non bisogna avere un approccio ideologico. La Fiat paga tasse anche in Italia e ha migliaia di dipendenti anche in Italia. Il problema è, visto l'ammontare del prestito, che sono 6 miliardi e 300 milioni con garanzia chiesto a Intesa San Paolo, ma dove l'80% è a garanzia SACE, viste le difficoltà che ha la SACE nell'erogare, le difficoltà, visto che ci sono altre imprese che vogliono ricorrere a questo fondo di garanzia SACE, alla garanzia della SACE sul fondo, bisogna avere, scusatemi il gioco di parole, delle garanzie su quello che sarà il futuro della Fiat in questo paese, perché non sfugge a nessuno che adesso è per metà americana, ma che fra qualche mese diventerà un quarto italiana, metà americana e un quarto francese, insomma. La fusione con PSA, e quindi si chiede solo di avere cosa prevista, se ben ricordo, dall'attivazione di questa garanzia, di avere dettagli su come poi verranno utilizzati i soldi, la conferma che non vi saranno licenziamenti né delocalizzazioni, e poi il tema dei dividendi. Comunque sentiamo Calenda. La Fiat chiede 6,3 miliardi con garanzia dello Stato, FCA Italia, che paga le tasse in Italia, per gestire le sue attività, visto che c'è stata una gigantesca contrazione del mercato. La Fiat ha sufficienti mezzi propri nella controllante per garantire questo prestito da parte di Banca Intesa o anche semplicemente per mettere i soldi nella società italiana e pagare i suoi fornitori, i suoi dipendenti, eccetera. La ragione per cui non lo fa è che nell'accordo con PSA, nella fusione che si sta costruendo con Peugeot, è previsto un maxi dividendo che la Fiat si distribuirà per 5 miliardi. Questo maxi dividendo non pagherà le tasse in Italia. Dal lancio di Fabbrica Italia nel 2012, la Fiat non ha mai rispettato un impegno di investimento in Italia. Questo vuol dire che non ha mai investito in Italia? No, ha investito e ha fatto anche delle bellissime fabbriche, ma non ha mai investito quanto ha detto che avrebbe investito. La SACE fino a oggi, cioè lo stesso meccanismo che sta usando la Fiat, ha varato 6 garanzie per 40 milioni di euro. Questo vuol dire che ci sono centinaia di imprese italiane con sede legale in Italia, con sede fiscale in Italia, che stanno aspettando i soldi. E le banche gli chiedono asseveramenti di piano, gli chiedono verifiche e controverifiche. Quindi la Fiat avrà per prima i soldi rispetto a tutte quelle aziende italiane che pure lo hanno chiesto e hanno sede legale e fiscale in Italia. Io sono favorevole a dare questo prestito alla Fiat, ma solo a patto che la Fiat si impegni a non distribuire i dividendi e che lo Stato verifichi puntualmente che gli obblighi di investimento, 5 miliardi di euro che ha detto avrebbe investito in Italia, siano investiti. Perché se tu hai i soldi e nonostante tu abbia i soldi chiedi la garanzia dello Stato che costa ai contribuenti italiani, tu poi non ti distribuisci i dividendi agli azionisti, peraltro non pagando tasse in Italia su quei dividendi. Mi pare semplice, mi pare evidente, mi pare di buon senso. E mi pare che il fatto che non se ne riesca a discutere in Italia dimostri una cosa, che molto spesso non c'è la capacità di avere un'interlocuzione forte con i grandi gruppi, mentre si è forti solo con i piccoli gruppi, quelli che non riescono ad avere la finanza. Io ho aiutato le imprese italiane, forse più di chiunque altro, con Impresa 4.0, eccetera. Ma aiutare le imprese e essere succubi delle grandi imprese sono due cose completamente diverse. Adesso immagino già le critiche, a parte che abbiamo fatto ascoltare tutte le opinioni, anche quelle di Conte, Gualtieri, le precisazioni. Com'è l'analisi, al di là di la pensi politicamente su Calenda, non me ne frega niente, ma l'analisi è proprio, entra nel dettaglio, ripeto, l'approccio non è ideologico, niente soldi la Fiat o sì la Fiat ha ragione, l'approccio è pratico, concreto, andare a chiedere delle garanzie essere sicuri, visto che questi soldi vengono dati lì e probabilmente non potranno essere dati da altre parti. Non c'è nessuna, la cosa più sbagliata sarebbe l'atteggiamento ideologico nei confronti della Fiat. Allora, ho il meteo e la pubblicità, poi parliamo un attimo della scuola, non come approfondimento, però insomma, della ministra Azzolina, e poi andiamo anche invece però una cosa la devo far ascoltare, facciamo sentire anche Gualtieri sulla Fiat, così do un'informazione ancora più completa che ha garantito il ministro che sono state chieste condizioni stringenti, e poi andiamo sul meteo. Noi abbiamo detto con chiarezza a Fiat Italia, perché sì, il prestito ha richiesto FCA Italy, che in Italia noi abbiamo detto che occorrevano degli impegni aggiuntivi a quelli già piuttosto stringenti che abbiamo introdotto nel decreto. Abbiamo detto voi dovete confermare e rafforzare tutti gli investimenti che avevate in programma in Italia. Occupazione, investimenti, abbiamo detto no a delocalizzazioni, non potrete delocalizzare nessuna produzione dall'Italia. Meteo. Focus Economia. Allora, la scuola non è un approfondimento oggi, vogliamo stare ancora sui settori produttivi, però una cosa la devo dire, io sono stato zitto in questi mesi con la ministra Azzolina, penso di non averla mai, quasi mai criticata, perché non mi piace fare, capito, tifo da stadio, però noto che in Spagna e soprattutto in Francia, sì, lasciamo stare la Germania e altri paesi, parliamo di paesi con casi e mortalità simile al nostro, si è tentato, perlomeno con molta difficoltà in Francia, su base volontaria e quant'altro, si è tentato di avere almeno un certa riapertura, anche perché si partiva dall'idea che il ragazzo, i ragazzi a scuola, a casa, creano disuguaglianza sociale, cioè più avvantaggiato chi è ricco, ha più devices e ha una bella connessione wifi, ci sono ragazzini che invece hanno forse un tablet e seguono lezioni col telefonino e magari non hanno neanche wifi, che non vuol dire giustificare i genitori che magari spendevano i soldi in altro, però insomma è chiaro che bisogna, a mio avviso si poteva tentare qualcosa di più. Lo dico perché qui ci sono tanti elementi che non tornano. Io ho un sospetto, e spero che la ministra mi smentisca il prima possibile, che a guidare le iniziative del ministro Azzolina sulla scuola siano state le preoccupazioni per gli insegnanti e quindi i sindacati degli insegnanti più che le preoccupazioni per gli studenti. Che la domanda è: la scuola è degli studenti o degli insegnanti, magari quelli che erano fuori sede ed erano rientrati in altre regioni del sud e sarebbero dovuti tornare al nord? Le pressioni più forti le avete avute dai virologi o dagli insegnanti che non ne volevano sapere di rientrare a scuola? Non tutti, per carità, ci sono insegnanti che stanno facendo un lavoro egregio con la didattica a distanza. Questo dubbio mi resta, perché nella scuola media, parlo anche in conflitto di interesse, l'esame di Stato verrà fatto via video, è un esame di Stato, non ho capito perché sti ragazzini non potessero andare scaglionati almeno a fare l'esame di Stato con presenza fisica. Ma al di là dei dettagli, ho chiesto un'intervista a Patrizio Bianchi, che stimo tantissimo, è consulente dell'amministrazione, sto ancora aspettando. Io non ho capito se si sia tentato oppure no, magari anche per regione, non lo so. E segnalo però cosa ha detto Azzolina sugli studenti. Serve alla crescita della persona, perché la scuola serve a questo, non è un travaso di conoscenze che viene fatto. Lo studente non è un imbuto da riempire di conoscenze, è ben altro. Fronte a questa analisi scomoderei la Montessori, ma anche Don Milani. Complimenti. Detto questo, una volta che abbiamo scoperto che lo studente non è un imbuto, lasciamo stare la polemica sulla battuta da riempire. Ministro, sì, travaso di conoscenze, ma l'organizzazione come la state pensando? O per dirla con la metropolitana di Napoli, la state pensando o la state cercando? Cioè, voglio dire, ci può dare qualche linea guida su cosa capiterà a settembre? Guardare quello che fanno gli altri paesi? Perché non è un dettaglio tenere, a parte il fatto che adesso abbiamo le mamme, perché poi tutto lì ricade, i papà che lavorano e i bambini con i nonni, tutto bene. Ma non si poteva guardare a qualche modello francese? Cioè, ci siamo arresi prima ancora di iniziare a combattere sulla scuola, ministro? E il mio timore, glielo ripeto, è che le pressioni più forti arrivassero dai sindacati e non dai sindacati degli studenti, che da sempre non hanno un sindacato. E poi mi scrivono i laureati in legge, mi scrivo, non voglio, Giovanni Polvani, ma anche altri studenti. Qui non c'entra l'amministrazione, però c'entra l'università e ricerca. Scusate, i laureati in legge hanno sostenuto la prima parte dell'esame di abilitazione per diventare avvocato a dicembre 2019. Non hanno ancora ricevuto da parte del governo alcuna indicazione, contrariamente a quanto avviene per altri esami di abilitazione. Ci sono migliaia di giovani laureati che hanno sostenuto il primo esame e non sanno cosa capiterà, perché già la correzione degli elaborati dura 6 mesi e i risultati dell'esame di dicembre sono pubblicati tra giugno e luglio e la prova orale di solito va a settembre. Qua non si ha neanche la coscienza, arriverà a dicembre, arriverà a ottobre, arriverà a novembre, non lo so. Io non voglio essere offensivo, però mi spiegate in questi mesi che cosa è stato elaborato sia come scuola dell'obbligo che come università e ricerca per darci una garanzia, non garanzia, insomma, un'ipotesi di come riapriremo? Sento ancora qualunque ipotesi, un po' la scuola mattina, un po' il pomeriggio, metà classe, ma un modello, ce l'abbiamo, due modelli, guardiamo cosa capita in Francia. Sono quello che chiedevo l'aperitivo serale. Sì, sono io quello che chiedeva l'aperitivo serale. Senta Carlo, lei la quarantena le ha fatto molto male. Comunque andiamo avanti. No, mi scriveva un ascoltatore. Dunque, andiamo invece sui settori. Ringrazio per averci aggiunto in collegamento Francesco Mangione, che è presidente della SPI e produce infissi, serramenti, isolanti, 500 rivenditori in tutto il mondo, serramenti tutti al 100% del Made in Italy. Vedete cosa c'entrano i serramenti? C'entrano. Buonasera Mangione. Buonasera a lei Barconi. Allora, perché lei e molti suoi colleghi siete così scettici sull'ecobonus? Perché lei mi ha scritto una mail molto dettagliata, adesso non posso elencarla tutta, ma perché temete che possa essere inutile se non dannoso? A noi vista così la detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 sembrava una buona iniziativa. Certo. Intanto partirei dall'effetto annuncio. Io ricordo il compianto Marchionne quando diceva che il nostro settore non ha bisogno di incentivi, ma se i legislatori ne hanno in mente, se li tenessero per sé e li comunicassero una volta definiti, perché altrimenti si gela il mercato. L'effetto annuncio in effetti ha girato il mercato, perché il 4 marzo, a ridosso del lockdown, il ministro Patonelli ha deciso di sparare questo titolo sui giornali. Io vorrei anche che facessimo una premessa per dire di cosa stiamo parlando. L'edilizia, con il comparto immobiliare, rappresenta l'8% del PIL, 800.000 addetti, a sensazione direi una decina di Fiat, visto che la Fiat ha 78.000 dipendenti in Italia. E non dimentichiamo che ante crisi gli addetti erano 1.3 milioni, quindi abbiamo perso 500.000 addetti nella filiera, altre 6 Fiat, di conseguenza 16 Fiat. Se la filiera dell'edilizia, mi rifaccio a Calenda, dovesse chiedere in proporzione a quanto ho chiesto Fiat, dovremmo chiedere un centinaio di miliardi di garanzie statali. E questa è la premessa. Ora, l'edilizia è cresciuta nel 2019 del 2,3%, quindi insomma dei timidi segnali di ripresa. Se l'aritmetica non è un'opinione e se l'edilizia con il comparto immobiliare vale l'8%, il 2,3% di crescita nel 2019 ha rappresentato quasi lo 0,2% di crescita del PIL. Ok, Mangione, però adesso mi dica perché non vi piace il provvedimento, perché abbiamo spesso ospite il mondo dell'edilizia, si figuri, e conosciamo le difficoltà del settore e quanto è che difficoltà ha fatto a ripartire. Che cos'è che, al di là il fatto che non è ancora pubblicato, questo sono d'accordissimo con lei, che cos'è che la convince poco? Perché mi interessa capire chi poi opera con tutto Made in Italy e va a fare le ristrutturazioni nelle case. Certo, cos'è che non ci convince? Noi siamo rimasti terrorizzati quando abbiamo sentito il 110%, ovvero paga pantalone, e avevamo chiesto invece una cosa molto più semplice: l'aumento erga omnes all'80% per tutti e per un tempo limitato, 18 mesi, magari l'altro 20% garantito al consumatore con un prestito statale, la detrazione in 5 anni anziché 10 e la possibilità di cessione a terzi. Ricordo che la possibilità di cessione a terzi fa rientrare in gioco il 30% degli incapienti, perché il 30% degli italiani non possono usufruire dei bonus perché sono incapienti. Quindi parliamo di rimettere in gioco con la cessione a terzi 18 milioni di consumatori e soprattutto l'apertura del cassetto fiscale mensile nei confronti dei gestionari. Invece cosa prevede il 110%? Che io l'ho definito un provvedimento, diciamo, per coloro che sono alti 1,80 m con gli occhi azzurri e parlano due lingue straniere. Il 110% prevede che l'intervento dovrebbe essere strutturale, quindi minimo deve migliorare di due classi energetiche l'unità immobiliare, e quindi un primo paletto. Due, ci deve essere un tecnico asseveratore che fa una verifica ant e post intervento, ma attenzione, il tecnico asseveratore deve prima dotarsi di una polizza di assicurazione quindicennale che possa risarcire l'agenzia delle entrate con 500.000 euro per ogni sinistro. Faccio fatica ad immaginare delle compagnie. Cioè, quindi se ho ben capito, per concludere Mangione, lei mi dice ci sono troppi, perché purtroppo sappiamo che nei decreti italiani il diavolo non solo lì, sta nelle pieghe e nei dettagli. Ci sono troppi elementi diciamo complicati le due classi perché uno ne faccia realmente ricorso. È questo che temete? Assolutamente sì. Tenga conto che poi sono stati esclusi gli immobili d'impresa, non si capisce perché, visto che hotel, ristoranti, teatri sono edifici molto energivori, esclusi nel nuovo provvedimento del 110. Solo residenza primaria si disse in un primo momento. Poi si è scoperto che in molti condomini ci sono anche residenze secondarie e si è detto va bene residenze secondarie ma non in unità singola. E questo mi puzza all'incostituzionalità, perché due seconde case, una in una singola non ha diritto e l'altra sì. Ma soprattutto la cosa più grave che mi puzza all'incostituzionalità è che chi avrà beneficio del 110% mantenendo tutti questi paletti infiniti difficilissimi da realizzare potrà avere la detrazione in 5 anni. Chi invece si limiterà all'intervento singolo, sostituire solo i serramenti oppure solo la pompa di calore o solo non so cosa, non solo si dovrà accontentare il 50%, ma con una detrazione a 10 anni, cioè si sono invertiti i ruoli, cioè 110% a 5 anni, 50% a 10 anni, e questo mi puzza molto l'incostituzionalità, onestamente. Ho capito, quello che dice, no, era importante perché volevo che ce lo spiegasse in diretta, io spero che alcune di queste vostre indicazioni possano essere accolte, faccio notare che ancora il decreto non è pubblicato, e questa è l'altra cosa grave, perché insomma va bene l'annuncio, ho capito che il test era complesso, però ragazzi sono passati 6 giorni. E grazie anche a Francesco Mangione, presidente di SP Italia. Adesso invece andiamo su un altro tema, dovrò nei prossimi giorni, lo dico agli ascoltatori, avere spazi molto brevi perché le categorie interessate sono tutte in questo paese, e quindi cercheremo di non fare torto a nessuno, ma non posso neanche immaginare di fare degli approfondimenti come quando magari il problema grosso ce l'aveva una categoria produttiva. Per quello che riguarda il ministro Azzolina, io non sto dicendo che sia facile, ma figuratevi, sto solo dicendo che si può guardare quello che fanno altri paesi e vedere cosa funziona e cosa non funziona. La Francia ha adottato un'apertura morbidissima, molto timida, a mio avviso anche con qualche critica possibile, perché anche lì poi se sei ricco, detta tutta male, c'è la babysitter, le lezioni le fanno da casa, se invece devi andare a lavorare è solo su base volontaria. Sto solo dicendo che non ho sentito nulla, se non stiamo lavorando sull'ipotesi mattina, pomeriggio, un giorno sì, un giorno no, non ho capito perché non ci si, neanche si sia tentato di fare un esame di Stato alle scuole medie inferiori, quindi alla terza media, in presenza. Non ho capito il dramma nel parlare 15 minuti invece che al video a distanza. Sono ragazzini che già giocano a calcio con le mascherine, si muovono con le mascherine, non stiamo parlando di situazioni ingestibili. Dell'imbuto dell'Azzolina mi interessa molto poco. È chiaro che la cosa che strideva lì è che riempire un imbuto è molto difficile, lo dico a chi mi chiede ma perché l'imbuto, perché per sua definizione un imbuto non dovrebbe riempirsi. Allora un conto è riempire un contenitore, e poi per carità si può anche provare a riempire un imbuto, ma non sono un esperto di queste cose, si può anche spalare l'acqua del mare con un secchio. Andiamo sul prossimo tema, dai. Io non so se il problema sia il problema delle competenze, perché ho detto prima che stimo moltissimo Patrizio Bianchi, che è il consulente principale del ministro Azzolina, quindi al di là della competenza o meno del ministro Azzolina, il problema è che devo comunicare qualcosa su quali linee guida stanno lavorando, non lo so, è il ministero più misterioso in questo momento del paese, tutti comunicano anche troppo tranne che l'istruzione. Sappiamo tutto sull'attusatura dei cani, ma non sappiamo ancora cosa succederà a sti ragazzini e alle mamme, perché tanto poi, ripeto, sempre lì si cade. Per andare a scuola molti utilizzano i mezzi pubblici. Guardate che, allora, scusatemi però, adesso non posso fare la puntata sulla scuola, ma mi spiegate perché si possono riaprire anche i ristoranti, i bar al banco? Adesso mi stanno girando però... Non ho niente contro le aperture, ma si può andare al ristorante, al bar, al servizio di banco, basta che uno stia un metro distante, e tu mi stai dicendo che non c'è un modo per provare a far fare gli esami di terza media o anche per le classi inferiori, per provare a vedere se si riusciva a, soprattutto nei casi critici in cui non hai il device a casa, in cui hai situazioni diciamo socio-economiche difficili, in cui devi andare a lavorare perché sennò non c'è da mangiare a fine mese, non si riusciva a sperimentare qualcosa, magari riducendo le classi a una, non lo so. sui bar abbiamo risolto, si può stare al banco a un metro di distanza, al banco di scuola non si può stare neanche a due metri di distanza, ma vogliamo pigliarci per Allora, professor Gianenzo Ducci, insegna economia e trasporti marittimi, nonché presidente di Federagenti, sto andando su settori anche molto dettagliati, che raggruppa 16 associazioni di categoria locali che coprono tutti i 144 porti italiani, e gli agenti marittimi operano nel settore container, crociere e quant'altro. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Allora, che cosa, no, sto vedendo molti messaggi sulla scuola, poi risponderò. Che cosa lamentate anche voi? Perché voi, il settore del mare in Italia vale il 2% del PIL con 32 miliardi di giro d'affari. Le navi che battono bandiera italiana hanno 65.000 marittimi, di cui 40.000 sono italiani o comunitari e 28.000 extra comunitari. Faccio una battuta facile: lamentate l'assenza di un salvagente per il settore del mare? Sembra una battuta, ma una battuta non è. Questo è un settore che nel periodo di peggiore lockdown ha consentito alle merci di arrivare nei nostri porti. Ricordiamo come l'80% del nostro commercio extracomunitario passi attraverso il mare, e ha consentito quindi di mantenere quelle catene di approvvigionamenti di beni essenziali che hanno consentito alle persone di poter stare a casa. Ecco, una volta che noi abbiamo garantito l'operatività dei porti, perché inizialmente si era pensato a un effetto imbuto nei porti, visto che si parlava di imbuti, in cui ci sarebbe potuto essere un blocco quindi di queste filiere, noi siamo riusciti a garantire nelle settimane peggiori che questo imbuto non venisse tappato. Una volta che abbiamo consentito questo di avvenire, sostanzialmente si sono dimenticati di noi. Perché se andiamo a vedere nel mare di provvedimenti che sono stati adottati, il mare è stato e i porti sono stati completamente dimenticati, sulla base di una logica che è quella che, perché così ci è stato detto a livello ministeriale, e voi avete avuto delle riduzioni di traffico nell'ordine del 60, 70, 80%, il settore aereo ne ha avuti del 100%, e quindi abbiamo preferito loro. A noi lascia un po' perplesso come approccio, perché è evidente che se si dovesse fermare il settore marittimo in Italia, noi abbiamo un problema di collegamenti essenziali per determinate aree del paese, certo, che hanno nel trasporto marittimo l'unico evidente. Allora, guardi, resti con noi, Ducci, perché adesso al GR24, poi la farò concludere sulla richiesta che avete anche voi al governo, darò anche qualche risposta sulla scuola. Continuate a dirmi che il problema sono i mezzi di trasporto, le metropolitane e quant'altro, per favore. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Faccio notare una cosa: si può andare a giocare nelle sale da gioco, ma non si può tornare a scuola neanche distanziate, neanche a giorni alterni. GR24. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, è filiera ecosostenibile, da Brazzale. Ciao, sono Barbara da Nuoro. I love my radio. Ciao, sono Anna da Cremona. I love my radio. Ciao, sono Rosaria da Napoli. I love my radio. Gli italiani amano la radio. La partecipazione del pubblico ai programmi della radio è aumentata di oltre il 27%. Il tempo speso in ascolto digitale della radio è aumentato del 61%. Ed è l'amica sempre vicina a 37 milioni di persone. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani. Anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Focus Economia. Minuti, adesso concludiamo con Federagenti. Devo dare i dati della Protezione Civile. Allora, i contagiati purtroppo sono il doppio di quelli di ieri, però fa notare che i tamponi sono circa il doppio, e quindi si va a 813 più di ieri, ieri erano stati 462. Ma al di là dei contagiati, che appunto dipendono dai tamponi, noi continuiamo a guardare l'andamento dei ricoverati e terapie intensive. Terapie intensive sono 33 meno di ieri, i malati sono 1424 meno di ieri, il dato più basso rispetto a ieri. E le vittime purtroppo sono tornate sopra 100, ieri erano scese a 99, sono 162. Faccio notare che dei contagiati il 50% è ancora in Lombardia, 462. Sono dati da guardare con molta attenzione, perché non sfugge a nessuno che il 4 maggio è iniziata una pezzo della fase 2, ma soprattutto il famoso weekend due weekend fa, la riapertura dei parchi, le polemiche sui navigli e quant'altro. Quindi sono i dati che iniziano a dirci se per caso aumenta il contagio e i ricoveri per via di questo allentamento delle misure. Allora, i positivi sono il meno 2% rispetto a ieri, meno 1424, i deceduti sono più 0,5, più 162, guariti più 2075, più 1,6%, il totale dei contagiati nuovi sono appunto 813, più 0,4%. Dunque, Ducci, che cosa chiedete, visto la disattenzione verso il settore marittimo e in vista anche dell'estate, che diventa un momento delicatissimo, che cosa chiedete al governo? Beh, noi stiamo chiedendo al governo di essere trattati come altre modalità trasportistiche, nel senso che l'autotrasporto, le ferrovie e il trasporto aereo hanno ottenuto la possibilità di traguardare questo periodo e di mantenere le proprie aziende in vita. Noi, a fronte di settori come quello croceristico, che è a meno 100%, con rischi occupazionali enormi sul paese, abbiamo l'impossibilità di, in alcuni settori addirittura, di fare ricorso agli ammortizzatori sociali. Quindi riteniamo che sia necessario fare una discussione ampia sul settore marittimo portuale per consentire di superare questa crisi senza distruggere quelle aziende che non si troverebbero più a essere sul mercato nel momento in cui il paese avrà necessità di utilizzarle dopo la ripartenza. I traghetti stanno facendo meno 60, meno 70%, le crociere sono scomparse, le compagnie marittime di linea che trasportano contenitori stanno eliminando i porti italiani, in alcuni casi, dalle loro rotazioni. È evidente che questo avrà un'incidenza forte sulla competitività dell'intero paese, ma il mare anche questa volta è stato dimenticato e su questo noi abbiamo la necessità di aprire una discussione. Non so se il MIT è il ministero corretto con cui farlo, probabilmente questo è un tema che ormai è da portare all'attenzione della Presidenza del Consiglio, perché avremo a breve delle criticità forti negli approvvigionamenti per il nostro paese. Allora, guarda, io penso che, insomma, spero che il governo si muoverà, finito questo, è andato in Gazzetta Ufficiale il decreto rilancio, ristoro, come lo chiamo io, andremo poi, io continuo a dirlo, nei mesi prossimi, nelle settimane prossime, a analizzare settori per settori. Alcuni settori che adesso hanno riaperto porteranno a casa le perdite, ma non sono più, diciamo, critici, e altri settori invece avranno trasporto marittimo, turismo, non ce la faccio fare i balneari oggi, li faremo fra due giorni, avranno invece ancora problemi nei mesi a venire. E quindi, dicevamo anche ieri, ogni settore dovrà essere analizzato nella sua specificità. Questo lo dico nel ringraziare il presidente di Federagenti Gianenzo Ducci. Molti continuano a scrivermi invece sugli aumenti, i rincari che si stanno registrando nei bar, nei parrucchieri e quant'altro. Bisognerà anche guardarli con attenzione, questi rincari, ci mancherebbe. Però a chi continua a scrivermi sulla scuola, guardate, io ho solo chiesto di capire quali sono le linee guida su cui si sta muovendo il ministro Azzolina e il comitato che l'assiste, e ho, per esperienza personale, ho massima stima di Patrizio Bianchi, economista, nonché assessore della Regione Emilia-Romagna, in attività produttive, uomo pragmatico e concreto. Voglio solo capire come si sta muovendo. Ci sono delle cose che non mi tornano, è inutile che mi scriviate i mezzi pubblici, ma insomma le scuole medie inferiori, per esempio, sono scuole abbastanza di prossimità, di solito, e così come si accettano i mezzi pubblici per altri motivi, per altri lavori, potevano essere fatti anche per gli insegnanti, per gli studenti, vedi che il lapsus è freudiano. Siamo riusciti a riaprire, per fortuna, con grande gioia anche del sottoscritto, devo ancora andarci, i parrucchieri, che non mi sembrano un lavoro proprio a poco contatto, non si è neanche mai ipotizzata una possibilità di avere degli studenti in classe a rotazione, come volete voi, con classi minime, quant'altro, tutto qua. Invece sui dati, prima di passare al prossimo tema, la terapia intensiva sono meno 4,4% e i ricoveri totali comunque sono 249 in meno, meno 2,3%. È chiaro che non interessa guardare soprattutto ricoveri totali, terapie intensive, perché sappiamo che i contagi e anche i decessi, cioè anche i contagi registrati dipendono molto dai tamponi effettuati e ieri ne sono stati fatti il doppio rispetto a domenica. Mentre quando uno purtroppo poi inizia ad avere problemi e deve essere ricoverato, quello è un dato, tampone o non tampone, che devi guardare. I ricoveri continuano ad essere in calo. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Al di là della borsa, molto bene comunque il BTP Italia che chiude su livelli altissimi, oggi è andata anche meglio di ieri. Parliamo di questo e soprattutto dell'accordo tra Francia e Germania, che dovrebbe rappresentare il pilastro, perlomeno insomma, un punto di partenza per un accordo complessivo a livello europeo sul cosiddetto Recovery Fund, dopo il traffico. Focus Economia. Sì, vedo molte proposte, qualcuno dice ma si poteva allungare anche l'orario delle lezioni, certo avrebbe aiutato i genitori, non gli insegnanti, adesso i ragazzi poi stanno a casa 3 mesi di nuovo come se non fosse successo niente, come se non fossero stati sequestrati il venerdì 23, mi sembra che fosse venerdì 23 febbraio, salutandosi per tornare a scuola lunedì e più visto, ci sono ragazzi delle medie, delle elementari che hanno le cartelle, la maggior parte, il materiale loro ancora in classe. Io capisco che tutti soffriamo, per carità, che il lockdown c'è stato per tutti, ma un conto è essere un adulto che riesce in qualche modo a metabolizzarlo e farsene una ragione, un conto è che il 21 febbraio, venerdì, ti saluti e poi non ritorni più a scuola, per sempre, altro che la riapertura tardi dei bar e dei parrucchieri, dei ristoranti, più, perché quello è il luogo più contaminante e pericoloso di tutti i luoghi sociali che possiamo frequentare. Ma vuoi mettere l'aperitivo? Ma figurati, è la scuola il focolaio, non l'RSA. Ma avete visto cosa è successo all'IKEA ieri a Milano? Le foto, cioè hanno avuto, adesso devo riprendere tutti i dati che mi ha mandato Dario Ricci, che si è appassionato a sta cosa, hanno avuto un incremento praticamente di... Allora, le file all'IKEA vanno benissimo, giusto. Le file dalle altre parti vanno benissimo, ma McDonald's benissimo, sono contento per McDonald's, però a scuola no, neanche ritirare la cartella che hai lasciato lì, o i libri che avevi lì, o i lavori fatti lì. Allora, dove andiamo? Andiamo dalla Mitica, dai, che almeno mi rincuora lei. Mitica Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. No, sto nero per la scuola, Adriana. Buonasera a tutti voi. Grazie, no, sto nero per la gestione della scuola in Italia, ma adesso andiamo su una notizia, a me sembra buona, poi uso il condizionale. L'asse franco-tedesco si è riproposto e molti vedo che storgono la bocca, però insomma, bisogna essere anche far realpolitik. La Francia in questo caso rappresentava, diciamo così, i paesi del sud, anche Spagna e Italia. La Germania sappiamo che ha un potere molto forte nel condizionare l'orientamento dei paesi del nord, Olanda Olanda in primis, e anche Austria. Hanno fatto un accordo in cui i 500 miliardi saranno distribuiti dagli stati sotto forma di sovvenzioni dal bilancio pluriennale europeo e non quindi non prestiti ma erogazioni a fondo perduto, a patto che vi sia un chiaro impegno degli stati membri per applicare politiche economiche sane e un'ambiziosa agenda di riforme. Adesso la Ursula von der Leyen presenterà la proposta della Commissione europea il prossimo 27 maggio. La domanda intanto è se secondo te il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, perché di questo recovery fund si parlava ma per una cifra tra i 1.000 e i 1.500 miliardi, però è vero che i paesi del centro-nord si opponevano all'idea di sovvenzioni, volevano solo prestiti. Sì, dunque, allora, è chiaro che un po' tutti parlavano di varie cifre, il Parlamento europeo addirittura 2.000 miliardi e compagnia. Di fatto 500 miliardi secondo me è una cifra realistica, nel senso che le ultime proposte della Commissione su cui si lavorava viaggiavano sui 320 miliardi, parliamo sempre del recovery fund, non altro. Quindi insomma 500 miliardi secondo me può avere un senso, anche perché va visto in sé e sono appunto delle sovvenzioni, cioè sono denari tipo quelli che eroga il bilancio europeo. Allora per noi naturalmente in questo caso c'è sempre la controindicazione che siamo ritardatari, poco capaci di, non abbiamo una pubblica amministrazione, una capacità progettuale tale per cui possiamo sempre sfruttare facilmente, ma si spera che diciamo impareremo e li utilizzeremo al meglio. Quindi in sostanza ci sono 500 miliardi, ma c'è anche il fatto che si prevede che gli stati più colpiti, tra i quali ci siamo noi, possano beneficiare di queste sovvenzioni in una misura superiore alla quota del rispettivo contributo al bilancio europeo. Mm-hmm. E questo è una solidarietà concreta, perché normalmente si tende sempre in base, è proporzionale, sì, alla tua quota di bilancio europeo. Esatto, certo. Quindi questo è una... È da lì che arriva la stima che... È da lì che arriva la stima che noi potremo utilizzare fino a 100 miliardi, proprio perché la quota non è proporzionale al nostro contributo al bilancio europeo? Allora, lo so che gira questa cifra in Italia, a me sembra un po' esagerata, perché mm-hmm. ci sono 500 miliardi e i paesi sono 27. Mi sembra difficile che noi... È vero che i più colpiti sono pochi, sono diciamo l'Italia, la Spagna, in parte la Francia, la Grecia, il Portogallo, però insomma 100 mi sembrano tanti. Comunque se riusciamo a prenderli naturalmente ben venga. E no, a parte questo, secondo me questi 500 miliardi, cioè il segnale di uno sforzo indubbiamente generoso da parte di Francia e Germania, secondo me è importante anche se lo si mette diciamo in luce con la sentenza della Corte di Karlsruhe. Mm-hmm. Perché dico questo? Perché per la prima volta con questi 500 miliardi di sovvenzioni non si immagina di fare soltanto diciamo una politica economica costruttiva, tant'è vero che appunto li si condizionano per alcuni paesi e presumo anche noi al fatto che ci voglia la politica economica sana, l'agenda delle riforme eccetera eccetera, ma è importante perché è accompagnato da un progetto di rilancio strutturale dell'economia europea. E mi spiego, l'idea è quella della non solo la sovranità sanitaria, quindi la riappropriazione dell'industria farmaceutica, tanto per dirne una, e in generale della ricerca sui nuovi farmaci, dei vaccini eccetera, ma c'è l'idea della sovranità energetica, sovranità tecnologica, sovranità sulla tecnologia del 5G, dell'intelligenza artificiale, insomma aiuti all'aerospazio, all'auto, al turismo, cioè è l'idea di rimettere in piedi una, e naturalmente l'economia verde, è l'idea di rimettere in piedi un'economia europea al passo con le sfide del XXI secolo. Mm-hmm. Allora in questo senso i 500 miliardi sono più di 500 miliardi, perché se creano le basi di una nuova crescita europea, anche più vigorosa, proprio perché punti su settori nuovi, questo secondo me diciamo cambia un po' i dati della partita e quindi può venire da qui un messaggio di ottimismo. Naturalmente bisogna poi vedere come va a finire, perché è sempre così in Europa. Oggi l'Austria durante l'Ecofin ha detto chiaro: non se ne parla di sovvenzioni, tutti prestiti, tutto va rimborsato. E l'Olanda è un pochino più cauta, ma ci sono la Danimarca e la Svezia che non sono in odore di compromessi. Quindi non è poi il momento, ci sono pure i paesi dell'est che temono in questo modo di venire penalizzati, loro che sono negli ultimi anni diventati, come dire, il serbatoio privilegiato dei fondi strutturali, eccetera, proprio perché hanno dei grossi gap di sviluppo. Quindi, insomma, ci sono diverse forze contrapposte che possono, diciamo, complicare il tutto. Però penso che la strada sia una buona strada. Ecco, perché l'ultima domanda che avevo per te era, questo patto reggerà, diciamo, la proposta della von der Leyen, nel senso che appunto soprattutto la Germania riuscirà, tra virgolette, a calmare così gli spiriti del centro-nord Europa? In generale la Germania c'è sempre riuscita quando vuole, quindi non vedo perché, soprattutto bisogna pensare che adesso il 1 luglio comincia la sua presidenza dell'Unione e ha tutto l'interesse a uscire con un successo, ma non è soltanto un interesse, se vuoi, politico contingente, è l'interesse di un paese e di molti paesi che hanno capito che oramai l'Europa è la loro piattaforma economica indispensabile, cioè tutti hanno bisogno della dimensione europea per competere sulla scena globale. A maggior ragione se poi si contrarrà l'export alla Cina, aggiungo io. Assolutamente sì, naturalmente. Quindi io penso che la Merkel, che già ha ripetuto davanti al Bundestag che l'interesse tedesco è l'interesse europeo, perché c'è una coincidenza tra i due, io credo che questo discorso valga anche per un paese come l'Olanda, che per esempio ha, se non ricordo male, il 57% degli scambi con il resto d'Europa. Certo. Quindi voglio dire, ci sono delle poste in gioco molto alte. Allora, al di là degli strilli e degli urli che sono normali in ogni trattativa, io penso che alla fine sia nell'interesse di tutti arrivare ad un accordo e arrivare presto, perché non ci dimentichiamo che la recessione arriva, purtroppo. No, ma purtroppo, guarda, qua non se lo dimentica nessuno, Adriana. Ti ringrazio per questa botta di ottimismo nel finale, che mi ha segato le gambe in conclusione del programma, non scherzo. Grazie anche Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. Devo rispondere solo a alcuni ascoltatori che continuano a dirmi: guardi che sulla scuola lei parla perché non conosce le classi, innanzitutto io in classe ci vado ogni tanto, un figlio che i ragazzini non sono in grado di stare distanziati, lei sta attaccando gli insegnanti, poi c'è un genio che mi scrive: adesso lei attacca il governo perché la nuova linea del presidente di Confindustria. Guardi, non ha capito veramente una mazza, perché abbiamo detto in molte occasioni è inutile sparare sul governo, date tempo a Conte, non è facile, non ho detto niente per 2 mesi e mezzo sulla scuola. È possibile però, senza venire accusato di voler buttare giù il governo, chiedere al ministro Azzolina come sta lavorando e quali sono le indicazioni su cui sta lavorando, o cos'è? È un laboratorio talmente segreto che fa sorridere quello di One, il laboratorio scolastico? Okay? Allora, e altri che mi dicono, molti insegnanti, io non ho attaccato gli insegnanti, ho detto che ci sono insegnanti che continuano, e ci mancherebbe, a fare un lavoro enorme anche nella scuola a distanza. Ho detto che ho il sospetto che, complici le pressioni sindacali, e lo ridico, si sia pensato più alla tutela degli insegnanti che hanno un'età anche, che alla tutela dei ragazzi, o meglio l'esigenza dei ragazzi. E mi sarebbe piaciuto vedere, a partire dalle regioni che hanno ormai da settimane un tasso zero di contagi, il tentativo, la sperimentazione, come sta facendo la Francia, come sta facendo la Spagna, oppure sono tutti contro gli insegnanti anche in Francia e in Spagna, moderatamente, con piccoli passi, ci mancherebbe, dai. Però se vogliamo dire che è stato fatto tutto il possibile, quando io vedo a riaprire tutto e si è accettato, ripeto, anche un metro di distanza nel bancone del bar, ma non si riesce a immaginare una classe ridotta di un terzo in aule che sappiamo che sono difficili, vabbè, attacco il governo, attacco la scuola, e sono disfattista e sono servo dei padroni. E che volete che vi dica? Che ci risentiamo domani dalle 17 in poi.